Salva Danaio. Buongiorno e benvenuti a questa puntata speciale di Salva Danaio, in cui vi riproporremo il meglio delle puntate andate in onda nei mesi scorsi. La gamma degli strumenti finanziari proposti dal mercato è vasta e molti risparmiatori, per scegliere quelli più adatti alle proprie esigenze, si affidano ai promotori finanziari, cioè professionisti del risparmio che per conto di una società di intermediazione mobiliare o in veste di consulenti indipendenti, collocano prodotti e servizi di investimento al pubblico. Al promotore finanziario è dedicata la puntata andata in onda lo scorso 25 maggio. Deborah Rosciani ne ha parlato con Maurizio Bufi, presidente dell'ANASF, l'associazione di categoria. Sentiamo. Azioni, obbligazioni, fondi, piani di accumulo. La platea di strumenti finanziari proposti dal mercato è vasta e molti risparmiatori, per districarsi in questo labirinto e scegliere quelli più adatti alle proprie esigenze, si affidano a veri e propri professionisti del risparmio, i promotori finanziari, figure che per conto di una società di intermediazione mobiliare o in veste di consulenti indipendenti, collocano prodotti e servizi di investimento alla propria clientela. Compito del promotore è dunque quello di offrire consigli di investimento finalizzati alla scelta dei prodotti e dei servizi finanziari adatti alle richieste del cliente. La prima cosa da fare, quindi, è analizzare le reali esigenze di investimento e, in base a queste, proporre le soluzioni adeguate. Infine, una volta compiuta la scelta, fornire al proprio cliente tutti i documenti necessari per valutare il proprio investimento e per conoscere cosa c'è nel proprio portafoglio. Con il passare del tempo, inoltre, è bene aggiornare periodicamente l'analisi della situazione finanziaria del cliente e suggerire, eventualmente, le opportune modifiche da fare. Ecco perché la scelta della persona alla quale affidare la gestione dei propri risparmi va effettuata in maniera accurata e prendendosi tutto il tempo necessario. Ma anche tutto questo non basta. La costruzione da parte del promotore di un vero servizio consulenziale che tenga conto di tutte le esigenze della clientela, abbracciando ad esempio gli stessi bisogni previdenziali, può partire solo da un processo di aggiornamento e formazione continui che elevi la qualità stessa della professione. Di fronte ad un consulente che non fa bene il suo lavoro e che magari, ecco, ha gestito male il patrimonio del proprio cliente, il cliente che cosa può fare? Insomma, come può rimettere in discussione il rapporto con un consulente che, ma guardi, che non ha fatto bene, almeno si ritiene non abbia fatto bene il proprio lavoro? Certo, direi che la cosa fondamentale è quella di costruire un rapporto fiduciario. Solo il rapporto fiduciario non è un rapporto fideistico di per sé, ha bisogno di riscontri, di conferme, ha bisogno appunto di creare quel clima di alleanza tra colui il quale, operatore esperto, è in grado di mettere il suo interlocutore, in questo caso il potenziale cliente, nelle condizioni di prendere delle scelte il più possibili consapevoli, e dall'altro gestire la relazione nel tempo. Quindi il risparmiatore è colui che dovrebbe innanzitutto individuare o essere messo nelle condizioni di individuare quali sono le sue reali esigenze di impiego del risparmio. La seconda cosa, una volta individuate e una volta individuate anche le priorità da dare all'impiego del risparmio, le sue finalizzazioni, cioè fondamentalmente immaginare il denaro e il risparmio come strumentale al raggiungimento di determinati obiettivi, di determinati fini che attengono al ciclo di vita di ciascuno, poi lavorare sulla relazione, andare a verificare i riscontri, gli impegni, misurare le aspettative, cioè è un rapporto in cui evidentemente il promotore finanziario, tanto più qualificato, tanto più è in grado di riempire la sua professione di contenuto professionale, tanto più questo deve essere apprezzato dal cliente, ma misurato, valutato, non delegato totalmente. Quindi il rapporto deve essere un rapporto tendenzialmente adulto, dove che si costruisce sulla base di uno scambio di informazioni. Laddove non ci fosse soddisfazione da parte del risparmiatore, il risparmiatore ha tante altre possibilità, perché il mercato è pieno di operatori. Infatti. L'importante è saper riconoscere, almeno in teoria, operatori qualificati, cioè quelli che adottano determinati standard di qualità. Dico nella consulenza. Ecco, tra l'altro un altro grande tema che riguarda questa categoria è il fatto di rappresentare un'unica azienda o più aziende. Adesso si sta andando sempre di più sulla strada del cosiddetto plurimandato, quindi diciamo oggi i promotori sono sempre di più in grado di fornire una consulenza che non riguardi solo ed esclusivamente un'azienda mandante, una società, una banca, una SGR. Presidente, questa è l'evoluzione che... Ma diciamo che nel quadro, il quadro normativo nel quale ci muoviamo, quindi tutto ciò che discende dalla MIFID e tutti i regolamenti di attuazione, hanno mantenuto il rapporto di monomandato con società che conferisce l'incarico. Quello che è cambiato significativamente in questi anni è la possibilità da parte del promotore finanziario di offrire alla propria clientela prodotti e servizi all'interno di una vastissima gamma di alternative, non tutte, anzi soltanto una parte di esse riconducibili alla società per conto della quale o al gruppo per conto del quale tanto opera. Per fare quindi un esempio per capire, il monomandato chiaramente è il mandato che conferisce l'azienda, il monomandato, io lavoro il per questa banca, ma questa banca mi permette di distribuire 500 assolutamente polizze, sì. 500 quali sono fondi, i vantaggi? Ecco. Che c'è un legame diretto tra colui che, tra la società o il gruppo che dà il mandato e l'operatore, in questo caso il promotore finanziario, ma chi ne beneficia è l'utente finale, quindi il risparmiatore o il potenziale investitore, poiché ha a disposizione attraverso un unico, se lo desidera evidentemente, attraverso un unico interlocutore, cioè il promotore finanziario, una gamma di prodotti e di servizi vastissima. Quindi il vantaggio è quello di avere di fatto un referente di fiducia su cui si costruisce una relazione, ma avere nel contempo la possibilità che questo operatore gli possa mettere a disposizione strumenti e servizi che vengono che sono collocati sul mercato. Certo. È un po' il concetto di architettura aperta, un po' il concetto che consente a noi, ai promotori finanziari, in questi anni di aver cambiato anche pelle in questo senso ed esserci avvicinati molto. Non è molto facile per voi, immagino, poter offrire la miglior consulenza possibile al cliente, conoscendo anche a menadito tutto le possibilità di prodotto che l'azienda è in grado di distribuire. Diciamo che per raggiungere la perfezione in questo senso ci stiamo lavorando e per adesso ci accontentiamo di poter rappresentare un universo molto ampio di possibilità al nostro cliente o potenziale tale, perché questo è un elemento di professionalità, è un elemento che il mercato tra l'altro ha richiesto, che il mercato in qualche modo ha imposto e su cui i promotori finanziari hanno visto con altrettanto interesse nel metterlo poi a disposizione della propria clientela. Cominciamo con le domande degli ascoltatori, cominciamo con subito chi dice che non si è trovato bene con il suo consulente. Saverio da Palermo, buongiorno. Sì, buongiorno. Cosa le è successo? No, io in pratica volevo raccontare la mia esperienza, insomma, senza generalizzare poi sulle categorie, perché a me non piace, insomma. Premetto che da 15 anni che lavoro e quindi è da 15 anni che cambio banca e quindi consulenti. E ho riscontrato sempre lo stesso problema, cioè quello comunque di avere persone che ti vogliono indirizzare su determinati prodotti, pur avendo, come dicevate voi, ormai una miriade di prodotti di diverse, diciamo, case di investimento, diverse banche, diverse SGR, tutto quello che si vuole. Cercano sempre di indirizzarti su determinati tipi di prodotti. Le faccio un esempio. L'ultimo consulente che ho avuto era in Fineco e cercava sempre di indirizzarmi su fondi comuni, dove poi insomma ho scoperto che, diciamo, commissioni credo insomma erano più alte rispetto ad altri tipi di prodotti. Ogni talvolta, per esempio, ho detto di voler investire invece in ETF che avevano commissioni più basse, insomma, mi è stato sempre sconsigliato, anzi mi è stato sempre detto sui fondi ti posso seguire perché sai, sui fondi c'è... Beh, su questo aspetto credo che lui avesse ragione, che chiaramente, come dire, facendolo sottoscrivere i fondi distribuiti dalla sua casa è chiaro che poteva seguirlo, altrimenti per un altro tipo di investimento non intermediato da loro, giustamente lei magari avrebbe dovuto trovarsi un consulente diverso. Sempre intermediato da loro in testa. perché tipo rimanendo sull'esempio di Fineco, loro hanno una miriade di prodotti. Sì, lo so, li conosco molto bene, Saverio. Adesso non vorrei focalizzare eccessivamente l'attenzione su questa azienda, ma insomma casi simili ce ne sono altri, altrimenti so già che ricevo la telefonata al fine della trasmissione, mi chiedo, ma cosa è stato detto? Saverio, comunque ho capito il tema. Il tema è che lei si è sentito un po' pressato nella scelta di determinati investimenti e magari si sentiva ben poco sollecitato in termini costruttivi dal consulente, più pressato a scegliere quello che dicevano loro piuttosto che quello di cui lei riteneva di aver bisogno. Esatto, tra l'altro aggiungo solo questo e finisco, dico, uno magari si aspetterebbe un po' di professionalità, soprattutto c'è gente che non ne capisce niente di queste cose. Infatti. Io qualcosina adesso molto modestamente capisco e quindi mi so muovere da solo, però è vero che uno firma e si prende proprio responsabilità, però il promotore forse dovrebbe essere anche un pochettino una persona che un pochettino ti aiuta ad entrare in un certo tipo di mondo. No, poi condividiamo assolutamente e vedo il presidente dell'associazione che annuisce. Saverio, se vuole fermarsi, magari presidente Buffi vuole interagire con lei. Detto questo, non è che stiamo parlando di una cosa che non succede, io credo che ne siate consapevoli anche voi. È chiaro che anche un promotore qualche volta cerca di portare a casa quanto più può e evidentemente qualche volta la società che rappresenta magari intermedia dei prodotti che sono più remunerativi per un promotore piuttosto che di altri, e questo è chiaro che li invoglia a spingerli di più. Ma questo è un dato di fatto, io prendo spunto dall'esperienza del nostro radioascoltatore. Diciamo che i passaggi che dovremmo tenere a mente noi come promotori finanziari e i nostri risparmiatori sono fondamentalmente i passaggi che consentono prima un'analisi dei bisogni, indipendentemente dagli strumenti. Una volta definita l'analisi dei bisogni, quindi fondamentalmente un'esigenza a breve termine, è evidente che ci saranno degli strumenti funzionali a quell'esigenza, che si chiamino titoli di Stato, fondi monetari o ETF. Ci sono delle esigenze che invece attengono a logiche di medio-lungo periodo, perché si vuole accantonare del risparmio finalizzato all'acquisto della casa piuttosto che a periodi molto più lunghi, quali possono essere quelli per i quali si accantonano risorse per la terza e la quarta età. Ci saranno strumenti in qualche modo servili in questa direzione. Dopodiché bisogna anche identificare il cliente dal punto di vista della sua propensione piuttosto che avversione al rischio, un altro elemento che caratterizza il rapporto professionale tra il promotore qualificato, quello particolarmente attrezzato e il nostro risparmiatore. Ma secondo lei un promotore come nel caso di Saverio che insiste per farci sottoscrivere un prodotto adducendo appunto le giustificazioni che Saverio ci raccontava, ci deve destare qualche sospetto secondo lei? Ma guardi, secondo me la cosa più importante è che il risparmiatore faccia anche nel presentare quelle che sono le sue esigenze, faccia anche tante domande al suo interlocutore. Quindi perché noi più dobbiamo solo ricevere dal promotore. Assolutamente, tanto più noi utenti, risparmiatori, mi metto nei panni del nostro radioascoltatore, siamo in grado di fare domande, di chiedere informazioni, di capire quello che stiamo facendo, del perché ci sta proponendo una soluzione piuttosto che un altro, siamo tanto più in grado di condividerle. E è evidente, laddove ci dovessero essere delle forme particolarmente insistenti e non motivate, questo ci dovrebbe evidentemente un po' allertare, il che non vuol dire che c'è un intento, esattamente, ma c'è semplicemente un focus del rapporto probabilmente un po' starato, sbilanciato. Esattamente. Io devo dire anche una cosa, che di quell'azienda citata qualche promotore ogni tanto siccome mi incuriosiva la modalità di distribuzione dei prodotti, che è estremamente varia, di questa azienda, ho chiesto a qualche promotore se l'azienda spingesse loro per la vendita di prodotti di una casa di investimento piuttosto che di un'altra. Quelli che ho sentito io mi hanno assicurato che l'azienda non fa pressione di nessun tipo. Poi magari quel promotore di Palermo invece evidentemente... Ma vede, poi ci sono modelli anche diversi sul mercato, quindi questo è un altro criterio di scelta. Noi se dovevamo dire che un risparmiatore adulto a questo genere di rapporti dovrebbe sentirne più d'uno, come dire, avere degli approcci con più persone, ma poi scegliere quello che si adatta di più alle sue caratteristiche, anche alle sue aspettative. Poi vede, l'ascoltatore diceva un'altra cosa secondo me importante. C'è un ruolo ruolo che oramai molti di noi, al di là dell'aspetto puramente commerciale, che adesso lascio un momentino da parte, hanno interpretato, che è quello di lavorare sul rapporto con il risparmiatore dal punto di vista dell'educazione finanziaria, di un minimo di alfabetizzazione, perché tanto più si conoscono un po' i rudimenti, diciamo così, del mercato finanziario, tanto più, coniugando questi con le proprie esigenze, si prendono delle scelte consapevoli. Faccio un esempio: quando parliamo di rischio, il rischio è una dimensione che va molto dettagliata, va rappresentata in modo tale che colui che se lo assume, se se lo vuole assumere, sappia ragionevolmente, verosimilmente, a che cosa va incontro nel caso in cui l'investimento, che per esempio debba avere un orizzonte temporale dato, invece trova un riscontro negativo in presenza di un accorciamento dell'orizzonte temporale. Presidente Bufi, ci dia la ricetta per riconoscere quello giusto per noi. Ma la ricetta giusta probabilmente non esiste, diciamo che ci sono alcune regole da seguire. Le regole da seguire è intanto avere un interlocutore che è attento alle nostre esigenze. Che significa? Significa che noi ci dobbiamo abituare a saper ascoltare il cliente, il potenziale cliente, nel momento in cui ci rappresenta quelle che sono i bisogni più evidenti, più immediati, che ci vengono posti. Il nostro ruolo è anche quello di rappresentare, però, nell'ambito del ciclo di vita che ciascuno di noi attraversa, quelle che potrebbero essere esigenze di breve, di medio, di lungo termine, perché per esempio tutto il tema della previdenza nelle giovani generazioni non è così sviluppato, non c'è questa sensibilità, c'è bisogno di qualcuno che le possa rappresentare. Esatto, intanto cominciamo a infondergli sensibilità, poi quando anche poveretti perché avranno le risorse per poter accantonare qualcosa e farsi la previdenza di scorza, di scorta, allora. Anche perché la previdenza è una materia molto delicata, sulla quale evidentemente la consapevolezza ha bisogno di essere tale per tempi adeguati, perché non si fa la previdenza nel giro di poco tempo, ha bisogno di tempi molto ampi, e questo vale soprattutto per le giovani generazioni. So benissimo che per loro comunque c'è un problema di priorità, di risorse economiche, ed è un tema di grandissima importanza e di grandissima delicatezza. Dunque, Giovanni da Milano, che mi pare faccia il medico, e quindi lui dice: per i miei errori io pago, e quindi qual è la relazione con il promotore finanziario, Giovanni? Ma niente, io volevo fare una domanda semplicissima: come si configurano le responsabilità del promotore finanziario? Cioè, ero proprio detto, se io sbaglio mi denunciano, pago, ho un'assicurazione. Adesso lasciamo stare il fatto che io paghi, ma io ho un'assicurazione. Il promotore finanziario è tenuto ad avere un'assicurazione? Gli errori suoi quali possono essere? Quindi per rispondere anche in solido, ecco, certo. Allora, dipende poi quanto è fatta male la consulenza e che tipo di danni provoca, a prescindere da quello che scappa con i soldi dei clienti. Presidente Bufi, però, insomma, allora, se io ti vendo un fondo di investimento, la borsa tracolla e il fondo va male, non è che chiaramente il promotore finanziario può rispondere di questo. In quali casi risponde in solido il promotore finanziario per una consulenza cannata completamente, ma anche fraudolenta, se vogliamo? Ma io scenderei però questi due aspetti. Un conto è dover soggiacere, come giusto che sia, a un sistema di regole e è un sistema sanzionatorio che peraltro è normato dall'organo di vigilanza nei confronti dei promotori, tant'è che si arriva fino a forme di radiazione dall'albo per responsabilità delle quali il promotore si è reso appunto protagonista. Un conto è la rappresentazione o la prospettiva o il verificarsi di risultati del tutto inadeguati rispetto alle aspettative. Probabilmente la pianificazione delle scelte, l'approccio consulenziale, la verifica delle caratteristiche psicologiche del cliente non sono state fatte in modo adeguato rispetto all'esempio che mi faceva. Dopodiché c'è ancora un altro scenario che impatta sulle scelte dei risparmiatori e sulle indicazioni dei promotori, che è quello di carattere previsivo. Noi veniamo dagli ultimi 10 anni dove dove nei mercati sono saltati tutti i paradigmi che conoscevamo nei 20, nei 50 anni precedenti. Questo è un altro dato di fatto, un dato di fatto che ciascuno responsabilmente, sia dal lato della domanda sia dal lato dell'offerta, si deve porre nell'indicare quelle che sono le soluzioni più adeguate per ciascuno, rappresentando rischi ed opportunità. Salva Danaio. Bentornati a questa puntata speciale di Salva Danaio, dedicata al meglio delle puntate andate in onda nei mesi scorsi. Dopo aver parlato della figura del promotore finanziario, Passiamo adesso all'investimento nel mattone, tema della puntata andata in onda lo scorso 23 giugno. Deborah Rosciani ha affrontato il tema con Evelina Marchesini del Sole 24 Ore e Alessandro Ghisolfi, responsabile del centro studi UBH. Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina. Non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento. Non si poteva andare a letto in quella casa, non c'era il tetto. Non si poteva fare pipì perché non c'era vasino lì. Ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero. Ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero. Questa non ve l'aspettavate, Evelina? No, questa mi ricorda mio papà quando me la cantava da piccolina. Anche a me, lo faceva anche a me, lo faceva anche a me. Qui abbiamo denunciato anche chiaramente l'età anagrafica. L'età io la denuncio molto tranquillamente, molto frequentemente anche a Salvadanaio. Allora, si riparla di casa oggi perché con il Sole 24 Ore debutta Casa 24, il nuovo settimanale appunto dedicato alla casa. Peraltro, Evelina Marchesini, ricordiamo che Casa 24 assorbe anche Casa e Case, che era l'altro settimanale che usciva il sabato con il Sole 24 Ore. Esattamente. Il Sole 24 Ore ha una lunga ormai tradizione di pagine dedicate alla casa e al real estate. Case e case erano quattro pagine settimanali nell'ambito del quotidiano che uscivano appunto il sabato. In più avevamo l'inserto Mondo Immobiliare, che era mensile, dedicato agli operatori, ai professionisti e a tutto il mondo del real estate e della finanza. Queste pagine sono state chiaramente ristudiate, rielaborate e rientrano in questo nuovo prodotto, che offre però naturalmente anche molto di più. Quindi si divide sostanzialmente, io sarò molto breve ma vorrei dare proprio un'idea, si divide in tre anime questo prodotto. Un'anima di mercato e tendenze, con lo spirito proprio del Sole 24 Ore, quindi dati puntuali, analisi esclusive, notizie e anche chiavi di interpretazione e trend. La seconda parte, che è appunto molto differenziata, è quella del mondo immobiliare, che diventa a questo punto settimanale e che è dedicato ai protagonisti, ai trend della finanza e del real estate, che ha anche un aspetto grafico differenziato ed è estraibile all'interno di queste 32 pagine. 32 pagine, consentimi Deborah, che sono iniziali. Noi ovviamente puntiamo a salire ulteriormente con i contenuti per i lettori. Capitani, quindi coraggiosi, veramente. Comunque la casa per fortuna offre... La casa offre tantissimi spunti. E poi una terza anima che abbiamo chiamato chiave in mano, che è la parte più propriamente di servizio, in cui il lettore può trovare tutte le normative relative alla casa, il condominio, le regole, i mutui naturalmente, perché non si può parlare di casa senza parlare di mutui o di prestiti dedicati all'acquisto dell'arredamento. Certo. E poi tabelle, guide e le lettere naturalmente dei lettori, che noi affrontiamo con uno spirito direi anche battagliero, quindi non solo rispondendo ai quesiti ma anche andando a analizzare situazioni eventualmente complicate. Allora, a prescindere dal fatto che abbiamo dato questa definizione all'attuale condizione di mercato, parlando appunto di una situazione di stagnazione, comunque di ingessatura, d'altra parte c'è anche la continua percezione, Alessandro Ghisolfi, comincio a coinvolgere subito lei, che la casa di proprietà rimanga sempre il mito intramontabile per l'investimento delle famiglie italiane. È ancora così? Sì, ancora così. Consentimi di fare i complimenti al Sole 24 Ore, perché devo dire a Evelina, grazie per il nuovo prodotto. Stamattina lo sfogliavo, devo dire che è veramente completo e secondo me è ottima l'idea, appunto quella di riunire così tante argomentazioni. Sicuramente la fogliazione crescerà ancora, perché come dicevate il tema casa propone mille argomenti da diverse sfaccettature. Per quanto riguarda il mercato, quindi un po' la parte che più mi può competere, in questo senso è ovvio, quando dobbiamo dare una visione molto generale, molto macro del mercato, non stiamo sicuramente ancora fuori, non siamo sicuramente fuori dalla crisi, nel senso che non si vede il segno più sul volume di compravendita. Se andiamo però ad analizzarlo, questo mercato, anche un po' più da vicino, a livello un po' più locale, potremmo anche invece dire che ci sono tante realtà in cui invece il mercato si sta muovendo. Alla fine del 2010, certificati dall'Agenzia del Territorio, i volumi sono cresciuti in alcuni anche comuni capoluogo di provincia, minori rispetto ai soliti classici Roma-Milano, anche esatto. Se Roma, per la verità, da quello che risulta a Casa 24, mi sembra sì, che qualche Roma controtendenza la stia ricominciando a manifestare. Certo, sì, è già da un anno che Roma dà questo segnale, ma parlo di altri comuni come possono essere al nord Bergamo, piuttosto che Padova, piuttosto che Ancona, al centro, eccetera. Per cui è un mercato che in questo momento appunto è ancora in una fase comunque vista in linea generale di forte stagnazione, una stagnazione che da una parte dipende sicuramente appunto dai finanziamenti alle famiglie che comunque stentano ancora abbastanza, anche se sono ripartiti in linea generale, e poi dall'altra parte sulla famosa questione dei prezzi che, certo. Sui quali i venditori non abbassano la guardia, anzi non abbassano i prezzi, diciamolo pure chiaramente. Evelina Marchesini, allora, che cosa conviene di più? Il mutuo o la locazione? È chiaro che non si può dare una ricetta generica, bisogna fare valutazioni molto attente. Come avete impostato il calcolo di convenienza fra mutuo e affitto? Esattamente, Deborah, non ci sono dei risultati scontati, ed è proprio per questo che noi abbiamo fatto diverse ipotesi, ne abbiamo pubblicate alcune, altre sono naturalmente disponibili sul sito. Abbiamo analizzato come esempio tipo la città di Milano, ma cambiando zona, quindi a seconda che si compri in centro, semicentro, periferia. Abbiamo cambiato la durata del mutuo, quindi in comparazione anche la durata dell'affitto, e abbiamo analizzato i casi da 10 anni a 30 anni, e abbiamo cambiato l'importo iniziale di acquisto, e quindi di conseguenza anche il mutuo e soprattutto il cosiddetto loan to value, questa parola che utilizzano le banche per definire il rapporto tra il valore dell'abitazione, della casa che andiamo a comprare, e quanto ci viene erogato in mutuo. Ricordiamo in proposito che questi loan to value, che arrivavano al 100 o anche più, anche al 110% negli anni d'oro, adesso sono drasticamente scesi. Dunque, che cosa emerge? Emerge che sicuramente aumentando la durata è più conveniente il mutuo, e su questo non ci sono dubbi. In tutte le elaborazioni che abbiamo fatto, assolutamente oltre i 10 anni conviene sempre acquistare la casa con un mutuo. Questo perché? Perché ci sono tutta una serie di considerazioni. Innanzitutto, l'immobile acquistato si rivaluta. Noi abbiamo fatto delle ipotesi molto conservative, per cui abbiamo ipotizzato una rivalutazione pari all'indice Istat per tutta la durata del mutuo, che è ben inferiore, come sappiamo, alla reale rivalutazione dell'immobile nel lungo periodo, quindi un'ipotesi prudenziale. Abbiamo considerato le spese del proprietario, abbiamo considerato i canoni, che sono invece un'uscita nel caso dell'affitto, le spese di registrazione del contratto, abbiamo considerato i benefici fiscali derivanti dal mutuo per la prima casa, quindi dalla possibilità di scontare gli interessi poi quando si va a calcolare l'imposta dovuta al fisco. E insomma, possiamo eventualmente scendere anche facendo qualche esempio. Per esempio, se vogliamo comprare un immobile in centro a Milano con un mutuo di una durata di 15 anni, con un valore ipotizzato di 420.000 euro e un loan to value del 33%, quindi mettendoci 300.000 euro di tasca nostra, ebbene, alla fine il guadagno finale per il proprietario sarà di 367.000 erotti euro e il guadagno finale per l'inquilino di 279.000 euro. Perché parlo di guadagno per l'inquilino? Perché abbiamo ipotizzato che il capitale di partenza fosse lo stesso per tutti. Quindi questi 300.000 euro, che in un caso vengono messi dentro alla casa, nell'altro caso vengono impiegati dal detentore in BTP di uguale scadenza, perché ovviamente bisogna fare i conteggi prendendo in considerazione tutte le ipotesi. Quindi, anche considerando di reinvestire questa somma, ricapitalizzandola e tutto, il vantaggio è alla fine per il proprietario, anche nel caso di avere un grosso capitale iniziale a disposizione. Ovviamente questi parametri si rafforzano mano a mano che scende il capitale disponibile iniziale e aumenta la durata. Per esempio, semicentro 30 anni, anni, valore dell'immobile 250.000 euro, capitale disponibile 52.000 euro, quindi molto meno. Abbiamo ipotizzato un loan to value dell'80%, quindi elevato. Abbiamo un guadagno finale per il proprietario di 49.232 euro e un guadagno finale per l'inquilino che è una perdita, ed è una perdita di 262.533 euro, cioè la ricapitalizzazione e i rendimenti di questo capitale disponibile non sono assolutamente sufficienti a coprire tutti gli esborsi e le spese legate alla locazione, e quindi alla fine di questi 30 anni l'inquilino sborsa netti 262.533 euro contro il guadagno dei 49.000 euro del proprietario. Il risultato cambia ovviamente solo sui 10 anni o scendendo prima dei 10 anni, in cui naturalmente la durata è diversa e potrebbe anche diventare conveniente la locazione rispetto all'acquisto. Una parola frequentemente utilizzata negli esempi che Evelina Marchesini ci faceva è quella di capitale disponibile. Alessandro Ghisolfi, perché glielo chiedo? Perché nelle indicazioni che lei ha dato nell'intervista che ha rilasciato per Il Sole, per l'inserto di stamattina, intorno a questo tema fa un ragionamento abbastanza approfondito. Quando si parla di scelta tra mutuo e affitto, bisogna avere a disposizione almeno 50.000 euro di liquidità se si tratta di fare un investimento di questo tipo in grandi città, altrimenti il dubbio non si pone nemmeno, si deve andare in affitto per forza? Beh, per forza, più o meno sì, direi di sì, al 90%, 95%, anche perché facendo le varie simulazioni che avevamo fatto e facendo il raffronto appunto classico tra la rata dell'affitto e tra il canone d'affitto e la rata del mutuo, avevamo visto che ipotizzando un mutuo richiesto al 100% con un loan to value quindi al 100%, sostanzialmente la rata del mutuo non riusciva a battere appunto il canone d'affitto. Questo cosa significa? Che nelle grandi città, e quindi parliamo soprattutto di Milano, di Roma e di Napoli, riuscire a comprare un bilocale di 70 metri quadri o ancora più un 100 metri quadrati diventa abbastanza difficile, veramente difficile, se non si ha un minimo di base di liquidità. Questo sulla teoria, in teoria sulla carta. Però inoltre oggi come oggi, con la crisi, dopo il credit crunch che c'è stato, gli istituti di credito francamente il 100% di finanziamento è difficilissimo che lo concedano, la media varia tra il 70 e l'80%, per cui il discorso può diventare interessante soltanto quando parliamo di piccoli comuni, capoluogo di provincia, dove chiaramente i valori delle abitazioni sono nettamente inferiori rispetto a quelli di Milano e di Roma. Allora in quel caso può essere che si possa partire anche con una base minima di liquidità, magari anche un pochino al di sotto dei 50.000 euro di partenza. Questo è un po' il motivo principale che ha fatto da freno molto forte negli ultimi 3 anni sul mercato. Certo. Salva Danaio. Bentornati all'ultima parte di questa puntata speciale di Salva Danaio, dedicata al meglio delle puntate andate in onda nei mesi scorsi. Continuiamo a parlare dell'investimento nel mattone, tema della puntata andata in onda lo scorso 23 giugno. Mettendo anche che si possa trovare sul mercato una banca disposta a concedere un finanziamento del 100%, perché conosciamo molto bene il direttore e ci fa questo favore, magari il possibile acquirente non ricorda che deve comunque predisporre una certa liquidità per tutte le questioni fiscali da sbrigare per effettuare l'acquisto. C'è la spesa del notaio, c'è il rogito, ci sono tutte le tasse appunto da pagare per poter fare la compravendita dell'abitazione, per cui in realtà il 100% copre solo il valore dell'immobile, ma un po' di liquidità disponibile è sempre indispensabile. Esattamente, infatti tante banche adesso fanno il conteggio proprio considerando il capitale incluso queste spese, ma ti assicuro che il 100% veramente non lo rilascia nemmeno l'amico direttore di banca. Scusate, effetto aria condizionata. No, io quello che volevo aggiungere, che è molto importante per gli ascoltatori che si trovano però alle prese Paese con una realtà molto diversa è che è sempre più difficile ottenere un mutuo in banca oggi, soprattutto per determinate categorie cosiddette deboli. Insomma, io penso al classico ragazzo 1000 euro, i famosi contratti a tempo determinato. Difficile che queste persone possano avere accesso al credito bancario a meno che non ci siano dei genitori o dei parenti disposti a firmare una fideiussione bancaria in questo senso, per due motivi: uno, perché la banca non li reputa sufficientemente garanti da un certo punto di vista, ma soprattutto perché il reddito è talmente basso che non riesce ad andare a coprire la rata, perché il parametro, ricordiamolo per chi non lo sa, è di un terzo, cioè la rata del mutuo non deve superare il terzo del capitale del reddito disponibile della famiglia. Perché quando ha abbondantemente superato questa soglia, ricordiamoci cosa è successo nel 2008, quando i tassi sono schizzati alle stelle, è chiaro che siamo andati tutti in fibrillazione, ma qualche volta anche basta un piccolo aumento della rata che ci può scompaginare appunto tutto il bilancio familiare. Alessandro Ghisolfi, voleva dire altro? Sì, volevo confermare le parole di Evelina, perché per esempio noi attraverso The Mortgage Factory, che è la nostra società che proprio lavora le pratiche di mutuo che poi vengono presentate all'istituto di credito praticamente pronte per essere approvate, abbiamo proprio notato che le cosiddette classi monoreddito oggi sono le più colpite, nel senso che è difficile che la pratica riesca ad avere l'ok finale. E quindi il consiglio è: fidanzatevi per avere un doppio reddito, però anche le spese raddoppiano, caro Ghisolfi. Non è che poi le spese rimangono quelle per una sola persona. Tra l'altro stiamo affrontando il tema dell'ingessatura del mercato, perché le banche non erogano credito e perché i redditi sono delle coperte troppo corte per potersi permettere la rata del mutuo. Ma ricordiamoci anche che però ci sono dei prezzi di mercato che non si abbassano. Dove stanno calando in maniera interessante, quindi dove si stanno creando occasioni di acquisto interessanti, dove invece l'offerta è rigidissima? Ma guarda, allora, innanzitutto abbiamo detto prima che ci sono alcune città che tengono in modo particolare, una è Roma, l'altra è Torino, le altre le ha citate prima Alessandro. Facciamo fare la domanda allora a Marco su Roma, che lo abbiamo recuperato. Andiamo con Roma. Marco, buongiorno. Buongiorno, io stavo chiedendo proprio questo, sono un po' di anni che sto cercando casa e rimango sempre basito dai prezzi, perché insomma conosco la mia città, conosco qual è il reddito, insomma perlomeno quello ufficiale della città. La maggior parte sono impiegati, sono persone che lavorano nel pubblico, e non riesco a capire come è possibile che i prezzi di Roma siano ai livelli di Parigi, di Londra, dove ovviamente l'opportunità di lavoro, il giro proprio diciamo dell'economia è enormemente diverso di quello di Roma. Quindi non riesco a capire, se qualcuno magari lì me lo può spiegare, come è possibile che nella lontana periferia, nel ridosso del raccordo, anche in posti improbabili, metrature incredibili da giapponesi. Insomma, io mi ricordo, ero ragazzino, facevano vedere questi giapponesi, vivevano nei 60 metri e tutti a ridere, no? Negli anni 70-80. Finiremo così anche noi, vivere in 40 stipati, in 40 metri quadri, Marco. Quindi insomma la sua ricerca non sta avendo successo, è molto scoraggiato. No, perché, guarda, io ho un reddito, credo, superiore alla media, ma ritengo assurdo spendere 400.000 euro per 70 metri, cioè è una cosa che sta fuori dal mondo. Certo, Marco, anzi, tra l'altro devo dire che per Milano ha fatto anche una cifra che per qualcuno viene considerata ancora molto conveniente, se l'immobile è anche in discrete condizioni. Evelina Marchesini, allora andiamo su Roma. Assolutamente confermo quello che dice Marco, i prezzi sono effettivamente molto alti. Adesso io non so esattamente la zona in cui stia cercando, a pagina 11 di Casa 24 Plus ci sono tutti i prezzi per l'usato, il nuovo, le tipologie, l'andamento, eccetera. Sul perché, io non posso altro che dire che è una questione di, evidentemente, di domanda e di offerta, perché la domanda a Roma è ripresa e quindi di conseguenza i prezzi restano alti. Ma forse può dire qualcosa di più Alessandro Ghisolfi? Alessandro Ghisolfi, sì, Roma la capitale. Roma la capitale, come tutte le città italiane, comunque ha avuto prima di tutto una forte spinta della crescita dei prezzi di vendita nel periodo a partire dal passaggio dalla lira all'euro. Diciamo che prima, quando ragionavamo in lire, effettivamente avevamo Via Condotti piuttosto che Piazza di Spagna, ricordo che faceva abbastanza scalpore, i 20 milioni di lire al metro quadrato, cioè 10.000 euro di oggi. Oggi invece siamo esattamente al doppio, se non di più. per il semicentro e per la periferia effettivamente il rialzo dei prezzi su Roma c'è stato, quindi soprattutto nel periodo tra il 2004 e il 2007. Poi dopodiché anche a Roma i prezzi comunque si sono fermati. Purtroppo nonostante quindi una ripresa di domanda che c'è stata soprattutto nell'ultimo anno, ma che non ha influito più di tanto sulla ricrescita dei prezzi, questa stagnazione dei prezzi romani, come nelle altre città italiane, continua a bloccare comunque il movimento delle compravendite, nonostante appunto Roma abbia avuto questo particolare strappo verso l'alto negli ultimi mesi. Ora, i prezzi quindi diciamo si sono più o meno fissati sulle medie che diceva anche il nostro ascoltatore, cioè i 400.000 euro per 70 metri quadri significa poco meno di 6.000 euro al metro quadrato. Cioè calcolando che su Roma il prezzo medio generale della città è superiore ai 4.000 euro al metro quadro, questo significa appunto che se la media è 4.000 vuol dire che andiamo da delle punte di oltre 20.000 a dei minimi che però non sono sotto i 3.000-3.500 euro. Quindi dei valori sicuramente molto alti e che secondo me bloccano un pezzo certo, di domanda. Bloccano un prezzo di domanda, però non si schiodano da lì, Evelina. Quindi, ma non lo so, che cosa potrebbe arrivare di nuovo affinché effettivamente tutta questa marea di venditori sul mercato possano convincersi a pretendere qualcosa in meno? Ma posso dire, magari il giudizio di Moody's sull'Italia. Questa potrebbe essere uno spunto. Sappiamo che appunto il nostro mercato non è molto sensibile, il mercato immobiliare italiano, a sollecitazioni di questo tipo, ma è effettivamente tutto da vedere quello che succederà anche su questo fronte. Noi abbiamo sentito degli agenti su Roma per fare questa tabella e tutti comunque ci segnalano un raddoppio delle richieste di case che poi non si traducono ovviamente immediatamente in acquisti, però tengono molto alta la domanda. Però noi abbiamo registrato questo ancora su Case Case, sulle nostre altre pagine passate, abbiamo registrato una grossa tendenza, ovviamente che resta di nicchia, a spostarsi proprio da Roma. Quindi un po' il concetto del telelavoro, un po' il concetto dell'essere professionista, insomma chi se lo può permettere si sposta dalla capitale e va fuori, ma non fuori in periferia, va proprio nei famosi paesini romani, ce ne sono tantissimi di bellissimi anche, o addirittura sulla costa. Ricordiamo poi che Roma tra l'altro ha presentato proprio in Eire l'Expo Italia Real Estate a pochi giorni fa un grandissimo piano di riqualificazione da qui al 2020 che vede tutta una nuova Roma che si spinge proprio fino al mare con un rifacimento completo proprio anche delle famose zone di mare che adesso sono insomma rimaste in gran parte degradate. A proposito di mare, un minuto di tempo, ma devo concedere la domandina a Lorella da Firenze, a cui chiedo di essere telegrafica. Lorella, ma so che è una domanda molto precisa, ci serve anche per lanciare l'uscita di Casa 24 della prossima settimana. Ci dica, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo comprare una casa al mare. Io ho guardato sulla costa tirrenica e insomma i prezzi sono veramente elevati. Mentre mi sono accorta che sulla costa, per esempio, abruzzese, dal lato Adriatico, erano un attimo più convenienti. È un discorso anche di... Grazie, cioè, Lorella. Vado subito ad Alessandro Ghisolfi, scegli il mio Adriatico, peraltro. Lorella, so che anche nelle Marche non è che si scherza, Porto Recanati, la Riviera del Conero, i prezzi anche lì stanno schizzando. Due indicazioni, Ghisolfi, su quella parte là d'Italia? Sì, è vero. Sulla costa abruzzese sicuramente sono molto più convenienti, i prezzi sono molto più interessanti rispetto alla parte adriatica, perché risente un po' del Conero da storicamente, da sempre comunque ha dei prezzi molto in crescita. Invece sulla costa abruzzese ci sono molte più opportunità, tanto che posso segnalare anche numerose famiglie del nord di Milano, di Bergamo, di Brescia, di Torino eccetera, che stanno spostandosi verso quella zona anche per affittare la casa al mare in agosto. Benissimo, allora quindi se non ha proprio fretta di acquistare, Lorella si vada a fare un giro quest'estate a trovare qualche bella occasione. Termina qui questa puntata speciale di Salvadanaio. Buon proseguimento e a domani.